in primo piano. In realtà le aperture sono oggi più che mai variegate. A me non piace fare la lista, l'elenco dei titoli di apertura, dei giornali, perché è una cosa un po' sterile, però sono tutte davvero diverse. Cominciando da Il Corriere della Sera, un'esclusiva: Berlusconi sì al segreto di Stato sui rapporti tra 007 e Telecom. Poi la vedremo, un'esclusiva firmata Luigi Ferrarella. La Repubblica apre sull'inflazione, mai così bassa, boom di deficit, 86 miliardi. Per Il Sole 24 Ore, in borsa, i ritmi della ripresa, vola l'indice industriale ISM, Wall Street accelera, dunque la ripresa delle borse. C'è chi apre ancora sulla Calabria, un patto tra i clan per sfidare lo Stato. La questione sicurezza la troviamo su Il Messaggero: sicurezza, paura New York, USA, paura e pugno di ferro per Avvenire. Tutti terroristi, questo invece è il titolo dell'Unità, e c'è un elenco di una fila di persone in fila al check-in, passati attraverso i cosiddetti body scanner, no? Quelli che dovrebbero garantire maggiore sicurezza, probabilmente entreranno in vigore anche in Italia, cioè quei metal detector che ti mettono un po' a nudo, no? Per vedere che c'hai anche sotto le mutande. E non è una battuta, visto che purtroppo l'attentatore nigeriano portava dell'esplosivo proprio imbottito nelle mutande. Vorrei partire da qui, insomma, come avete capito ci sono tante aperture diverse, cercheremo di vedere le varie notizie, ma la questione sicurezza sicuramente oggi è in primo piano, anche perché Obama, tornato dalle Hawaii, dalle vacanze, riunirà gli esperti per capire che cosa è fallito nella comunicazione, degli errori sicuramente incredibili di mancata comunicazione su questo attentatore nigeriano. Il body scanner non è la soluzione, ecco, manco è stato ancora inserito, e già dall'Inghilterra esperti inglesi, almeno si legge sulla stampa pagina 5, ci fanno sapere che non è la soluzione, perché alcuni esperti hanno fatto capire che quell'esplosivo portato dal nigeriano non verrebbe controllato, non verrebbe intercettato dagli scanner, appunto i cosiddetti body scanner. Passi per la cera, i metalli, esplosivi come il C4, ma niente da fare con la plastica, polveri chimiche e liquidi, in quel caso non verrebbero intercettati. E dunque già in Inghilterra c'è la polemica, perché si dice è inutile, cioè non pensate di aumentare la sicurezza con quell'introduzione dei body scanner. Anche il Corriere della Sera, pagina 2-3, fa due pagine proprio sulla sicurezza, insomma, tutte le distrazioni dei passeggeri che fanno scattare l'allarme rosso, varchi sbagliati, valigie incustodite, comportamenti sospetti. Alessandra Mangiarotti, che firma questo pezzo, e dice sostanzialmente le regole: abituatevi a lunghe file, abituatevi a controlli aumentati per chi deve viaggiare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, anche a code e a ritardi, perché quello che è successo per esempio ieri all'aeroporto di Newark, vale a dire uno degli scali principali per chi accede agli Stati Uniti dall'Europa, ha portato a una chiusura di 4 ore e poi a inevitabili code e disagi e ritardi a ricaduta su tutti i voli internazionali. Durante i controlli sarà meglio evitare di opporre resistenze, quando vi si chiede, insomma, di aprire le valigie, di deporre le cose. Tra le minacce più frequenti l'allarme bomba, scrive il Corriere, almeno 10 o 15 telefonate anonime fanno sapere che c'è la presenza di un ordigno a volo, spiega il direttore dell'ENAC all'aeroporto Vitaliano Turrà. E se la telefonata dice c'è una bomba sul volo, che ne so, all'Italia per Londra, tutti i voli devono essere per Londra di tutte le compagnie, vengono sottoposti a controlli minuziosi anche con l'uso dei cani esplosivi. Dunque la sicurezza, insomma, torna in primo piano per Il Sole 24 Ore. Secondo Marco Valsagna, che firma da New York, è ormai imminente, sarebbe pronta, che cosa? La lista nera di 14 paesi per gli aeroporti americani. Vale a dire, i cittadini di 14 paesi considerati sponsor o a rischio del terrorismo, chiunque parta, chiunque transiti dai loro aeroporti, saranno sottoposti a stretti controlli prima di poter volare verso gli Stati Uniti. Una lista che dovrebbe comprendere l'Iran, il Sudan, la Siria, Cuba. Si aggiunge lo Yemen, il Pakistan, Arabia Saudita, Nigeria, Afghanistan, Algeria, Iraq, Libano, Libia, Somalia. Non le ho contate se sono 14, ma insomma se sono tutte queste o ce ne sono altre, questa sarebbe la lista. Intanto le polemiche, perché oggi Obama appunto si riunisce, cerca di capire cosa è successo, chissà, magari cadrà anche qualche testa di suo collaboratore che ha fallito. Il New York Times rivela che le minacce di attentati erano già emerse durante la cerimonia di inaugurazione del presidente da parte di gruppi di somali, anche se si rivelarono allora infondate. Ma insomma, anche il Messaggero: un uomo elude i controlli, paura nello scalo di Newark. Questa è la situazione al momento, una situazione di difficoltà, una situazione in cui la sicurezza torna in primo piano. È l'apertura anche dell'Unità, quel tutti terroristi che io ho citato. Vai a ritrovarla adesso l'Unità, comunque ce l'ho qui da qualche parte. All'interno ci sono anche due pagine dedicate a quella che è la situazione Umberto De Giovannangeli sulla rete del terrore, la rete del terrore, come è ramificata Al-Qaeda sostanzialmente in tutto il mondo. E c'è un interessante, l'ho ritrovato, editoriale firmato da Luigi Bonanate, che insegna relazioni internazionali all'Università di Torino, e che spiega perché quel tutti terroristi in prima pagina. Un nuovo teorema, scrive Bonanate, si aggira per il mondo. Tutti i concittadini di un terrorista sono potenziali terroristi. È questa la linea che l'America di Bush, pardon, di Obama, ha deciso di assumere di fronte alla nuova ondata di terrorismo originata dal fallito attentato al volo Amsterdam-Detroit. Ma quale ondata? Un attentato fallito da parte di un giovanotto piuttosto mal scelto, se per fortuna non ha saputo fare quel che voleva. È come se ai tempi delle Brigate Rosse in Nigeria si fosse detto che tutti gli italiani erano dei potenziali terroristi perché Curcio era italiano. Tutti i terroristi, dunque? L'Occidente è caduto nella trappola che i terroristi gli hanno teso. Senza muovere un dito, hanno riportato la loro immagine non poco sbiadita al massimo della notorietà, sfruttando le tecniche e le procedure del loro avversario. Mass media, panico diffuso, terrore. E allora è davvero terrore o invece sono minacce fondatissime e siamo in un mondo in cui la sicurezza è peggio dell'11 settembre? Questo è quello che vi chiediamo nel nostro sondaggio, ripeto, vi sentite più sicuri rispetto all'11 settembre riguardo alla minaccia terroristica 8 anni e qualche mese dopo? Vi sentite più sicuri, sì o no? Votate su radio24.it, trovate nell'home page un po' in basso a destra, ormai lo sapete, la sezione bianco o nero. Voglio andare all'esclusiva del Corriere della Sera, cambiando tema. Come detto, Luigi Ferrarella firma quello che è il titolo poi di apertura del quotidiano: il Berlusconi sì al segreto di Stato sui rapporti tra 007 e Telecom. Il Presidente del Consiglio, leggo dall'articolo di Ferrarella, mette il segreto di Stato sulla natura dei rapporti con Telecom dell'ex numero 3 del controspionaggio militare Sismi, Marco Mancini, di cui la Procura di Milano chiedeva il processo per il dossieraggio illegale contestatogli in concorso con l'ex vertice della divisione security di Telecom e Pirelli, Giuliano Tavaroli e altri 34 indagati. Silvio Berlusconi lo fa in una lettera in risposta al giudice dell'udienza preliminare Mariolina Panasiti, che il 13 novembre scorso aveva attivato la procedura di interpello di Palazzo Chigi, prevista per legge ogni qualvolta un imputato prospetti di non potersi difendere se non violando un asserito segreto di Stato. E che cosa aveva fatto Marco Mancini? Aveva proprio detto: non posso rispondere alle domande perché c'è il segreto di Stato. Al processo, alle contestazioni, Mancini aveva opposto il segreto di Stato, ricorda Ferrarella, a quasi ogni domanda rivoltagli, sia sui rapporti con l'allora capo della security di Telecom e Pirelli, Giuliano Tavaroli, sia con i rapporti con Emanuele Cipriani, che era il fornitore di notizie per i dossier, sia per i rapporti con l'investigatore privato John Spinelli, ex agente della CIA, sia nei rapporti con l'ex giornalista di Famiglia Cristiana Guglielmo Sasinini, sia nei rapporti con l'ex ufficiale dei Carabinieri Angelo Iannone. In tutte queste domande Marco Mancini aveva detto: non posso rispondere perché c'è il segreto di Stato. In più, ricorda Ferrarella, quando la difesa di Cipriani gli aveva chiesto se avesse mai intrattenuto rapporti con Marco Tronchetti Provera, all'epoca dei fatti presidente e maggior azionista di Telecom, ma mai indagato, Mancini aveva nuovamente opposto segreto di Stato. Allora, che ha fatto il giudice? Ha chiesto a Palazzo Chigi se c'è davvero il segreto di Stato. Ecco qui l'esclusiva. La risposta di Berlusconi è arrivata, scrive Ferrarella, il segreto di Stato invocato da Mancini c'è. Con tre conseguenze. La prima è giudiziaria e quasi certa per Mancini, cioè un quasi ovvio proscioglimento per non luogo a procedere. La seconda è sempre più giudiziaria, ma più incerta, e concerne il destino processuale dei coimputati di Mancini. La terza conseguenza, scrive Ferrarella, è invece extragiudiziaria ed è il senso più generale degli interrogativi sulla natura dei rapporti tra segmenti del controspionaggio militare e importanti funzioni aziendali come la security di una grande società privata cruciale nel delicatissimo settore delle telecomunicazioni. Questa è l'esclusiva del Corriere della Sera, la trovate ovviamente in prima pagina. Voglio saltare così, ci sono vari temi, come avete capito, un po' svincolati l'uno dall'altro, riprese anche degli eventi dei giorni scorsi, come la vicenda della Calabria, la bomba fatta, ordine artigianale fatta esplodere davanti alla procura di Reggio Calabria. C'è Roberto Maroni, il ministro dell'Interno, che parla al Sole 24 Ore, lo fa con Marco Ludovico, parla di un fatto molto grave ovviamente, e soprattutto di un atto di terrorismo mafioso e di una risposta dura in arrivo. Annuncia Maroni, arriva il modello Caserta, quello già sperimentato contro i casalesi, lo esporteremo a Reggio Calabria e lo estenderemo in tutte le zone della regione dove è necessario. Cosa significa in concreto? Più uomini delle forze di polizia, più coordinamento tra di loro e con la magistratura, controllo intensivo del territorio, massima attività informativa e investigativa. Poi tra l'altro Maroni parla nell'intervista anche della vicenda sicurezza, vale a dire la sicurezza dei cieli, quello che sta succedendo, parla dell'imminente introduzione che lui sponsorizzerà dei cosiddetti body scanner, parlerò presto con il presidente dell'ENAC, Vito Riggio, sono deciso a far sì che siano collocati quantomeno a Fiumicino e a Malpensa, vale a dire i due maggiori aeroporti internazionali italiani. Sempre sulla Calabria voglio segnalare che ne parla Roberto Saviano, lo scrittore di Gomorra, in prima pagina di Repubblica. Il titolo è Saviano, perché l'andrangheta scende in campo contro i PM. L'incipit è questo: chi parla di mafia diffama il paese, chi parla di mafia difende il paese, scrive Saviano. Le organizzazioni criminali contano molto, solo con la coca i clan fatturano 60 volte quanto fattura la Fiat. Calabria e Campania forniscono i più grandi mediatori mondiali per il traffico di cocaina. Si parla di 600 tonnellate di coca all'anno ed è una stima per difetto. L'andrangheta, come dimostrano le inchieste di Nicola Gratteri, che è il PM più esposto nella lotta alle 'ndrine, compra coca a 2.400 euro al chilo e la rivende a 60 euro al grammo, guadagnando 60.000 euro da ogni chilo. Quindi con meno di 2.400 euro di investimento iniziale percepisce un'entrata pulita di 57.600 euro. Basta moltiplicare questa cifra per le tonnellate di coca acquistate e distribuite per capire, insomma, il giro d'affari al netto di cemento e estorsioni dell'andrangheta. L'andrangheta è la svolta del tritolo. All'interno di Repubblica poi ci sono due pagine appunto di Roberto Saviano su questo tema, sull'importanza di mantenere alta anche l'attenzione su questo tema. Allora ci fermiamo per il traffico e poi vedremo le altre notizie sui giornali. In primo piano. Ho citato pochissimo di politica perché la politica oggi è abbastanza noiosa, sinceramente, sui giornali. C'è la vicenda dell'Italia dei Valori, del Partito Democratico, la vicenda delle regionali, la scelta delle regionali. Il PD ha scelto, pare, in Puglia il deputato Boccia, che avrà un mandato esplorativo di 48 ore per capire le eventuali alleanze. L'unica cosa un po' interessante è lo sviluppo, insomma, ieri ricordate che abbiamo detto fini come Di Pietro, questo era il titolo del giornale, c'è una replica molto seccata da parte di tutti gli esponenti del PDL a Feltri, al direttore del giornale, oggi c'è una lettera anche in prima pagina, caro direttore, Gianfranco non è come Di Pietro, è firmata Ignazio La Russa. cosa diceva ieri sostanzialmente il giornale, che AN starebbe per far confluire tutti gli immobili, tutto il patrimonio in una fondazione ad hoc, farli insomma sparire tutto il patrimonio immobiliare in questa fondazione. Un'accusa che viene respinta dalla Russia, dice nulla è cambiato, né oggi è in corso di cambiamento per quel che riguarda la sorte degli immobili, non è in corso alcun passaggio a società ad hoc, come invece dice l'articolo. Insomma, respinge tutte le accuse. Poi Ignazio La Russa dice anche l'articolo cerca di accreditare la tesi contenuta nei due citati titoli gravemente offensivi per l'uso del verbo sparire, sia per l'accostamento e i comportamenti di Di Pietro, che in ogni caso non ci azzeccano, dice La Russa, utilizzando proprio la terminologia dell'ex PM. Insomma, un po' tutto il PDL, si legge anche sugli altri giornali, scarica Feltri di fronte a questa accusa, tanto che il Secolo d'Italia, che è il quotidiano del PDL, insomma era il quotidiano di Alleanza Nazionale, mette proprio in prima pagina Vittorio Feltri: fermiamo gli sfascisti, Feltri riparte contro Fini. E si chiede il Secolo d'Italia: perché danneggiare il PDL in campagna elettorale? Sempre per quel che riguarda la politica, c'è forse l'intervista più interessante, è sempre sul giornale, a Francesco Rutelli. Immigrati, dove sbagliano Sinistra e Fini? Il leader di API, cioè questa nuova alleanza per l'Italia, insomma, Rutelli è uscito dal PD, ha formato questo nuovo partito, dice sostanzialmente si sbaglia a pensare che i musulmani possano integrarsi in maniera facile, è una strattezza al multiculturalismo, dobbiamo promuovere i nostri valori e le nostre regole. Apprezzo che Fini abbia aperto in qualche modo alla cittadinanza per gli stranieri, abbandonando posizione vicine alla Lega, ma non condivido le scorciatoie che rischiano di essere superficiali. Insomma, un Rutelli che si riscopre così, anche appoggiato da Il Giornale, che infatti dice, insomma, meglio, più affidabile lui di un Casini a questo punto. Insomma, questa è la politica, francamente un po' oggi un po' schermaglie noiose per quel che mi riguarda, ma trovate, se volete, sui giornali qua e là qualche intervista, qualche commento al riguardo. Per quel che riguarda l'economia, segnalo, torno sul Sole 24 Ore, la cui apertura, come detto, è legata alla vicenda dei mercati, delle borse in ripresa. Borse in ripresa, insomma, hanno iniziato l'anno con tutti più in borsa, i ritmi della ripresa. La borsa sente aria di riscossa, a pagina 3, un avvio sprint per i listini mondiali. Un altro indice che fa ben sperare, insomma, per iniziare l'anno positivamente per quel che riguarda la ripresa economica, trovate a pagina 4, vale a dire l'industria mondiale accelera, cresce l'attività delle imprese manifatturiere sia in Asia, sia negli Stati Uniti, sia in Europa, espansione, e questa è un po' la parola chiave. Gli indici dei direttori d'acquisti di dicembre pubblicati ieri segnalano che l'attività economica del settore manifatturiero sta crescendo. Per carità, piccoli segnali, ma per iniziare bene. Oh, non è economia, è più tra le, o meglio, è tra l'economia e il costume, ma la vicenda dei saldi e dell'incredibile boom di italiani che hanno letteralmente assediato outlet, negozi alla ripresa dei saldi dal 2 gennaio, dà spunto sia al Corriere della Sera che alla Stampa di fare due editoriali in prima pagina. Che tristezza quegli outlet. Questo è il titolo dell'editoriale di prima pagina di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. La coda dei milanesi all'outlet di Serravalle, dove i saldi non erano ancora iniziati, col centro di Milano semideserto, tranne Corso Buenos Aires e via Monte Napoleone, dove i saldi c'erano già, è un dato che va oltre la cronaca, scrive Cazzullo. Segna la definitiva trasformazione del centro commerciale in piazza, città, posto non solo di commercio ma anche di incontro. Non a caso, da Fidenza a Valmontone, da Noventa Piave a Mantova, i centri commerciali che hanno fatto i migliori affari d'inizio 2010 si chiamano outlet. Non a caso sono costruiti come paesi finti, come borghi medievali, posticci, con le mura, le porte, le fontane, le botteghe, dove portare il cane a passeggio, i bambini a giocare, la moglie a prendere con 99 euro il maglione di cashmere che fino a qualche giorno fa in centro costava 400. Non è detto, però, scrive Cazzullo, che questa profonda trasformazione sia negativa. Certo, coincide con una perdita. La piazza è un tratto distintivo della nostra civiltà, non esiste nella cultura araba. Ebbene, questa perdita della piazza è, secondo Cazzullo, una perdita grave. Insomma, servirebbe, tanto che scrive, di più rendere i centri storici competitivi coi centri commerciali, sicuri, facili da raggiungere, attraenti anche il tardo pomeriggio e la sera. Grazie a quelle ricchezze, l'arte, la musica, il teatro, financo la preghiera, che le nostre città si forgiano da secoli e che gli outlet possono al più riprodurre. Insomma, dice Cazzullo, un po' di tristezza, un po' di cambiamento culturale, epocale. Dicevamo che anche la stampa in prima pagina parla appunto dei saldi, di questa moda dei saldi. Lo fa con un editoriale dell'economista Mario De Aglio, L'insana giungla dei saldi. In questo caso il taglio è più prettamente economico. Code per entrare nei negozi, code alle casse per pagare, code sulle autostrade che portano agli outlet, i nuovi centri commerciali, telegiornali zeppi di immagini di consumatori affannati ma contenti che dichiarano di aver fatto un buon affare. Di fronte a un simile spettacolo, scrive De Aglio, ci sono due motivi di perplessità. Il primo è che le code sono quasi sempre indizio di disfunzioni del mercato e che quelle dei saldi segnalano distorsioni del meccanismo di vendite, non sono certo il sintomo di un consumo equilibrato. Il secondo motivo di perplessità assume la forma di una domanda ingenua. Invece dei saldi sempre più frequenti, non si potrebbe procedere a un permanente e moderato abbassamento dei prezzi di vendita? Interessante la domanda di De Aglio. E che poi conclude così: sono passati tempi in cui il consumatore medio era un entusiasta, dal portafoglio gonfio grazie alla tredicesima, che decideva la sua spesa di impulso. Il consumatore medio di oggi non ha molto entusiasmo e neppure molti soldi. Tra lui e il sistema distributivo è una specie di duello. Il consumatore aspetta la sua preda, i saldi, la distribuzione cerca di far acquistare al consumatore tutto prima dei saldi. Vabbè. Interessante, sono le segnalazioni conclusive, voglio segnalarvi da Repubblica, Trentino, arriva il test antidroga per chi fa lavori ad alto rischio, lo ha deciso la provincia di Trento, un test che dovrà essere fatto dal centro antidroga di Trento e che riguarderà le categorie di lavoratori come tassisti, autisti di mezzi pubblici, lavoratori che si occupano di gas tossici, chi maneggia fuochi d'artificio, i direttori di centrali nucleari, future immagino, dovranno fare questo test perché è una svolta della provincia. Chi si sottrae va incontro alla sospensione dal lavoro in via cautelativa. Sapete che essendo autonoma la provincia di Trento può fare anche queste decisioni. Interessante anche questo sui test antidroga per alcuni tipi di lavori, mentre segnalo anche in chiusura Gian Antonio Stella fa una denuncia molto forte riguardo a quello che sta succedendo a Marsala, il monumento ai garibaldini, mostro incompiuto da 50 anni. È un monumento che è un cadavere cementizio, definito così da Stella, che testimonia in modo agghiacciante quale sia il nostro rispetto, il rispetto del nostro paese per la sua storia. Dedicato a Garibaldi e ai Mille, fu immaginato dopo lo sbarco, promesso ai tempi del Duce, progettato per il centenario del 1960, iniziato con la posa della prima pietra da Craxi 24 anni fa, bloccato 2 anni dopo perché totalmente abusivo, sbloccato, ribloccato, abbandonato alle erbacce. Abbiano pietà, lo abbattano. Il monumento ai Garibaldini, mostro incompiuto da 50 anni, con tutte le foto di questo scempio edilizio, le trovate a pagina 27 con un lungo articolo, un'intera pagina di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Ci fermiamo, il sondaggio, votate, vi sentite più sicuri dell'11 settembre, 8 anni dopo, sul fronte terrorismo, sì o no? Ne parleremo alle 8:30, ora GR24.